alle 10. CQ10? Sì, mi dica. Adesso con questo pipì ho mai rotto le scatole, me lo bevo. Ah, e allora ti accontento subito. Sinuso. Hai visto, me lo bevo, E poi neanche ora, allungare di più. Più di così non si può allungare. Ah, la mia già si allunga. Beh, già lo credo che sia allungata, cara mia. Non c'è bisogno di mettere la crema. No, la picchiriola già va bene. Appunto per quello. Beh, lo stai combinando. E cosa sto combinando? Mi è morto il dottore, sto cercando di cambiarmelo, di mettermene un altro nuovo. Capitola. Ed è un macello a quanto pare. Ma che tutti sono pieni, boh. Guarda che c'è uno qua a Cambolazzi, via Carlo Felice, mi dà il genere di posto, attaccata alla farmacia, capito? Quella che c'è qui vicino, via Carlo Felice, genere a posto quello, si chiama dottoressa Affina, Giovanna Affina, basta che vai in farmacia e cosa? Fai direttamente la domanda lì, non c'è bisogno di andare al CAF, c'è al CAF o cosa, all'INAM. È già andata mia moglie in farmacia a vedere se ci danno questa dottoressa che è amica di mia moglie e conosco bene la situazione. C'ho anche una cugina che è dottoressa, il marito è dottore, lo stesso, però bisogna vedere se sono pieni o no, e non ho potuto rintracciarli io, girà. Né a uno e né all'altra, tutti e due morti. Cazzo morti. Sì. Ma molti perché sono pieni, o molti morti proprio, sì, che pesti. E se non sono morti a ballare, si hanno ammazzato, che non hanno risposto al telefono. Ah, magari tu hai telefonato che non è in ambulatorio, senz'altro. Capito, il discorso è quello lì. Dovresti provare magari, prova di mattina, poi provi di sera, dico come fare così. Infatti, tanto io dal dottore non ci devo andare, devo telefonare, mi devi mandare via email, i ricetti e e per le medicine, ah, in Noravona, proprio là ce ne dobbiamo morire più. Via email, o via cosa, via WhatsApp, a me me ne manda via WhatsApp, solo che adesso la farmacia, se li porti il telefono, secondo che farmacia è, ma continua le medicine, hai capito? Allora ho fatto la fotocopia, la WhatsApp, è quella che c'è vicino a tu, di farmacia, il consumatore Manuel mi ha detto, dice, gli do solo una perché cosa ne so se gli si fa 5 fotocopie, gli ho detto, ma sta scherzando o cosa, gli ho detto. E tu me ne dia 3, gli ho detto, e gli ho detto, io ce l'ho nel telefonino, mi ha detto, ce la faccio, a farmi la 4,5 ore di fila, e in mezzo all'acqua, in mezzo alla neve, gli ho detto. A me il medico me la manda così a casa, quando gli chiedo la medicina, me la manda, mi fa la ricetta via WhatsApp, gli ho detto. Cosa gli porto? Il telefonino e mi mette il timbro sopra il telefono, gli ho detto, ma stiamo scherzando o cosa? A me le manda via posta elettronica, infatti io a questa dottoressa stamattina gli ho mandato la posta elettronica via WhatsApp, no? Ci ho parlato io con questa dottoressa, adesso vediamo se riusciamo a fare il cambio. A chi dici, sono andato io poco fa in via Giovanni Pascoli e mi hanno detto che è piena, che se più di 1500 non ne può avere. Se ne ha 3.000 del sole, cosa 1.500, ne ha 3.000 quello che ho io, il medico. Infatti si è tutto suonato, ogni volta che dà gli appuntamenti da tutti alla stessa ora, tu vieni alle 4:30, ne trovi 20, poi all'altra alle 5 ne trovi altri 20, quando ho fatto la... mi vaccina, io ho detto la prossima volta la metto a fare aria, ho detto. Quando mi c'è le 4 e mezzo più piglio ci vado alle 4. Dio via. Un casotto è Antone, è un casotto. Ok, un casotto sono anche farmacisti perché sono dei pezzi di merda. Sì, sì, lo sanno anche loro che quando non è che puoi andare dentro l'ambulatorio e farti la fila come una volta, no? Adesso la cosa la mandano via email o via WhatsApp le ricette, quindi per non dare i telefoni in mano fai la fotocopia naturalmente, no? Gliela dà e poi dice ascolta, la fotocopia non ti imbrano nemmeno, prendi e la distruggi e basta, e poi non ci fai più, ci vediamo il prossimo mese. E infatti poi c'è la data nella ricetta, ma che cazzo stanno dicendo? Uff, a me me la manda via email, me la manda, gliele stampa mia moglie e lì va in farmacia e mi prende le medicine. Adesso vediamo un po' cosa mi dice. È appunto per quello, io qui a Calabria sono andato col telefonino e gliel'ho spiegato a quella farmacista, sono andato al trascianto storico e ho detto mi voleva dare tutte le medicine, gli ho detto, perché gliel'ho presentata in fotocopia e pensavano che me ne facevo 5, gli ho detto no, ce la faccio a farmi dietro 5 fotocopie, gli ho detto. Per carità, gli ho detto, guarda, gli ho detto addirittura, gli ho dato una fotocopia, ho detto, la stracci, cosa me ne faccio? Detto, il prossimo mese la rifaccio, me la faccio rifare nuova. No, non era convinta, no. Dice, la prossima volta, dice, viene con l'originale. Sì, ho detto, beh, faccia la cosa, gli ho detto. E ci vado lei a farsi la fila da medico mio, che ne ha 3.000 di persone. Sta tutta la mattina lì, si piazza col tavolino, la sedia, gli ho detto, aspetta che fino all'ora di pranzo. E si mangia un panino. Fuggito, sì. Non sono morto. Mi sono spostato un attimo. No, hai detto che sei rifuggito, no? Che sei morto, sì. Con tutti quelli che stanno morendo in questo periodo, cazzo. Ogni arrivo. Stanno facendo gli affari, come si chiama, i becchini. Tutti i ricchi stanno diventando. Sì, adesso c'è anche la quarta ondata, mi già l'hai vista. Adesso non basta più le due dosi, ne vogliono fare anche un'altra, capito? E quindi e se sembra vaccino normale, perché a parte non ne faccio altre io di cose, non ne faccio altre vaccino, se la possono prendere in culo, bastano due, basta avanzano. Tanto se ti devi pigliare il viso tu lo pigli lo stesso, basta uno che sia positivo e ti frega lo stesso, anche se sei appena vaccinato. E io vado all'asino della Cruca e mi faccio vaccinare da lui. Cazzo. Ah guarda, se l'asinara non fosse stata qua, a cosa mi sarebbe preso il terreno lì, avrei fatto la casa, avrei messo il giardino, gli animali, altro che vaccino sarebbe stato, sarei stato tutti i giorni pescando, sarei stato lì. E sarei campato solo a pesce. Io ho un set di carne da pesca, ne vuoi? Cazzo di è. Uiaia. Ma dimmi tu, cazzo. Questo, io me l'ho cambiato il dottore, no, il mese scorso. Perché era morto il mio. Cazzo, vita, noi travagliendi, aspetti un paio di giorni, vuole a telefonare a venerdì, già mi dottore, faccio prima io, dice chi non mi rispondi né al telefono e no travaglia né non mi biasi né come te dottori. Uno mi deve rispondere e mandarmi le ricette, perché se io chiamo vuol dire che c'ho bisogno. Capa capa, si conferma Natalino, cambio. Di Franco California, ciao Fra. Ciao Antonello Pomponio, buonasera, ben ascoltato, capo. E me, Franco California, come tu fai, vischero? Ah, stavo provando questo bidone, a vedere se stava funzionando bene. Sì, capa capa, digli quante canne da pesca c'ho, Fra, diglielo a Antonello. E Antone è un casino, ne ha. Sì, no, canne da pesca no. Non ci vado mai, sono andato una volta a pescare io, abbiamo pescato più vino e panini che altro, tanti anni fa. E io da te, siamo andati lì a Protovers, a Manchisa, eravamo io, Giampiero, mio fratello, poi c'era Andrea Maricomio e Gianni di Ussi. Ci abbiamo preso solo un'imbarchiera a vino e basta, con un freddo che c'era. E beh, abbiamo pescato un accidente. Per forza, sei un ubriaco fragico, anche il pesce vuoi prendere. Beh, cioè, quando uno è ubriaco il pesce c'è la voglia che lo prende in culo, però. Fra, a te compareggia anche Antonello. Se non è un ubriaco fragico, come fa a prendere il pesce? Franco, se fa l'altro. Franco, California, la mazza che te ne scenda, dove sei? Oh, fuzziti, cioè, mi sei incendiato il baracchino. Allora, stavo provando evidentemente, perché è passato il medico di guardia. Mi sto costruendo un coso, un alimentatore mi sto costruendo. Cioè, il circuito ce l'ho già, quello dei cinesi. Ma sono smontati la parte di sopra. La ventola gliela piazzo dalla parte di dietro, li faccio fuori piccolini, così almeno non fa casino come questa, cazzo, che può già dare una cosa. E poi li metto la tacocchia di sigari e le bananine, quelle femmina. Siccome c'ho un coso in lamiera, capitai, di un ex aspirastagno di quelli a coso, modello vecchio che c'ha il compressore, allora ho preso, ne ho tolto tutto e ci ho messo nella carcassa ci ho messo l'alimentatore di quello da 30 ampere. Adesso lo devo avvitare eccetera eccetera, metterci le bananine così mi faccio un bel alimentatore piccolo in coso. C'ha anche le manecce, c'ha cazzo. Ah, con le manecce. Ah, vero, come il mio, con le manecce. Ehi. Vero. No, le mie c'ha le brizzelle. Comunque, guarda lì. La pennella che mi ha fatto qua c'aveva lo stesso problema della mia. Installava, poi trovavo la capa a installare. Cosa si fa zia? Non so se fa così. Oppure devi staccare la pennina, spegnere il computer, non lo so. Comunque l'ho installato da... ho fatto l'installazione da Windows 7. Ho inserito la pennina, ho cliccato sopra il setup. Ho fatto così. Se no non riuscivo a installare Windows 10. E a me fa cosa mi l'hai installato allora? Che su che faccio vivere, su chi sa quanto tempo ed è sempre funzionando lì. O ero computer tuyo che è difettoso, cosa vuoi ti dica? A me me l'ha installato e ce l'ho Windows 10. Vabbè da, un attimo che telefono a mia moglie, a vedere se cosa ha concluso. Ehi, vabbè, l'ho installato così qua a posto, dai, andava, lascio la pennina Bluetooth e me la legge. Chiara, gamba, ma tu un po' c'è quello grigio alimentatore, mio da 50. Quello grigio metallizzato, cioè, ne ho due. Ne ho uno da 20, e l'altra volta avevo venduto a cosa. E poi me lo sono ricomprato l'altra volta, sono andato lì dai cinesi e me l'ho ripreso. Però siccome avevo questo saldatore ad aria, capito, aria compressa, cioè in pratica faceva da saldatore e poi c'era il compressore all'interno, ho preso sotto tutto e ce lo fico là dentro. Ci sta giusto, ci sta. Capito? E quindi adesso lo sto modificando in modo che non faccia casino, visto che questo qua fa un sacco di casino, fa messo così sopra l'appoggiato. Aspetta un attimo il telefono. Luga. C'è qualcuno qua? Tutti morti siete? Molto bassa, ti dico, con la comunque, in un'area, Mario Pontorre. Sassari. Avanti Sassari. Ciao Natali. No, volevo sentire chi era che parlava sotto. Non so se era Alghero o Porto Torres o qualche altra zona. No, io avevo lo squelch, quindi non ho sentito nessuno. Gianfra, buonasera comunque. Sì, ciao Natali. Buonasera. Vediamo un po' se riesco a capire da dove sono. CQ10 da Sassari. No, parlavo in continentale. Aspetta che sono io un po' basso. CQ10 da Sassari. Oh, vabbè. Chi era? Allora Natali, tutto bene? Hola. Sì signore, tutto bene. Cazzo, ho telefonato al medico stamattina e dice che non sta lavorando, che questo, che quello, me l'ho appena cambiato. Adesso me lo devo ricambiare perché a me mi servono le medicine e questa qui dice che non poteva prescrivermi nulla. Cosa vuoi ti dica? Andato una che ne conosco, l'ho telefonata e dice che ci vuole un mese prima di cambiare il medico, ma cosa vuoi che ti dica io, boh, adesso mi tocca comprarmi le medicine, sempre che me le diano senza ricetta. È tutto un manicomio, guarda, sta diventando, non c'è giorno che non ce ne sia una, stiamo andando veramente, è peggiorando a vista d'occhio. Ma comunque c'è stato qualcuno che chiamava sotto di nuovo. Avanti, chi chiama per Sassari? Oh, niente, non riesco a tirarmi fuori, mi piace, non lo so, io sto venendo in QRM qua, tu arrivi proprio a livello di QRM, quindi la modulazione, se non è una modulazione potente, non riesco a tirarmi fuori. Hai una modulazione molto bassa e quindi sono presente, non mi sei capito, non mi dice. Sì, attenzione alla stazione che sta parlando sul 10, qua operatore Alfa Bravo da Sassari, mi ricevi? Oh, Natali, non so cosa dirti, non so da dove sia questa stazione, magari è da Tempio forse, da quelle zone. Sì, è una brutta situazione Natali. Lo so, adesso vediamo un po'. Se riusciamo a sbrogliarla, l'ho ritelefonata a quella dottoressa che ha voluto anche la mia email, però dice che è piena e che ci vuole un mese per cambiare medico. Vediamo se ci riusciamo. Beh, mi richiamerà se ne ha voglia, se no me lo cerco un altro da cui ti dica. Infatti, ma c'è là. Comunque puoi sempre optare per un veterinario, che forse ti fa anche meglio. Non ci avevo pensato. Quelli almeno sono esperti un po' di tutto. E allora? Allora, vediamo oggi cosa c'è un po' da fare. Mamma mia, che casino, invece volevo provare una cosa, invece mi sa che è da buttare. Sì, è da buttare, infatti è da buttare. Non sa che va a piede Natali. E cos'è da buttare? No, un portatile. Invece adesso funziona. Sì, quando le piace a lui funziona, quando invece lo vuoi usare non funziona, a lui dillo. Vabbè, vediamo un po', è vecchietto, è poverino però. Sì, vabbè, se è acceso e funziona, che aspettina. Lo so, ma deve funzionare, nel senso deve funzionare con la S maiuscola, non funzionare quando lo decide lui. Sì. Vabbè, vediamo un po'. E poi non so neanche quanto è là. Aspetta anche. Allora, che sono queste scritte piccole a questa età, ma perché non fanno le scritte grandi, che ne chiamano il cialogigo, come si dice, A una certa età non ci vedi più, ma sta lì, è inutile che stai a lamentarti anche tu. Io ho gli occhiali, infatti, se no non ci vedo veramente. Anche io ce li ho gli occhiali, però. Allora, cosa mi stai dicendo? Qualità di connessione è bassa, ritardo del resto 1.1, mi dovevo andare con 1.1. Però questo aggancio, e oramai è tutto 4G, c'è niente da fare, tu sei vecchietto. Non sanno neanche i piedi, ma vedi quando per spostarti le fini non vuoi puoi neanche mettere dritti. E che vuoi che ti dica? Ah, io ne ho uno solo portatile adesso, più due di quelli bagnati. Ragazzi, sono caduti in acqua. Sì, quelli vanno bene quando c'è l'acqua, capito? Quindi sono bagnati. Sì, sono i soliti Bauf. No, sono proprio per quella banda lì, capito? Sì, c'ho un coso della Nokia che non fa, è diventata appiccicosa la plastica, anche questa. Cosa hai cenata lì? Cassonetto? Cassonetto. E certo gli dispiace. Mi dispiace. È un coso particolare, non fa neanche a prenderlo in mano, fa schifo. Cioè, l'avessero fatto in plastica avrebbe fatto meglio, ma sono pieno d'auricolari, tutti i telefoni che ho avuto sto facendo, come si dice, pulizia generalizzata. E allora ne avrei molta roba da buttare nel cazzonetto. Sì, anche perché poi vai a cercare altre cose e mi scatta tutta questa roba, cioè non la trovi. Quindi adesso non sto lì a perdere tempo, prendo e ci butto tutto. Sì, infatti, quando la roba non va bene. Ma andare. Allora, Natalì, non mi racconti niente di bello. Io sono tutta la mattina nervoso per questo cavolo del dottore, cosa ti devo raccontare? Ma te lo stanno dicendo tutti i giorni i giornali che i medici non ce n'è. In certi paesi oramai sta ricomparendo lo stregone che fa le porzioni, anzi sassarese, come si diceva, la magliaia, quindi vai da quelli e magari ti prevede anche il futuro. Ma io vado dal veterinario del mio cane, tanto le ricette le può fare pure lui, me la faccio ordinare da lui. E tra l'altro gli dici, siamo tutta una famiglia, no? Quindi che problema c'è, o che sia per lui o che sia per me? Mi faccio fare il bollettino, pure a me. Non è possibile, Gianfranco. Io invece delle ricette me lo faccio fare al mio gatto, che è laureato, è un professore emerito, tra l'altro. Solo che dà fastidio un po' quando ti visitano, soprattutto il problema è ora se quando ti fa aprire la bocca, perché ti infila la zampa e poi stai mezz'ora lì a tossire perché ho iniziato a perdere il pelo, capito? Poi per ogni, è un po' caro, per ogni intervento vuole una coscia di prosciutto, di mortadella, insomma, bisogna pagare dosi. Il mio si sta laureando, ancora non è pronto, poverino, che è piccolino, e quindi appena si laurea me ne faccio fare da lui le ricette. È l'unica, è Natale, se no non se ne esce più. Non se ne esce più quando aspettare questi che si laureano, questi giovinotti. Ma se ho telefonato a mia cugina, che è medico, al marito, e non sono riuscito a rintracciarli a tutte e due, né a uno e né all'altra. Boh, non so cosa dire. Ma faccio domani mattina, provo a vedere se ne rintraccio uno di dottore. Boh. Ma a posto di tentare così, io ti consiglierei di cambiarlo via SPID. Entri nel tuo fascicolo sanitario e puoi anche cambiarti il medico online. E fai prima, guarda. Ma te lo bloccano, se hanno più di 500, di 1500 clienti, non te lo fa cambiare, capito? E poi io non ho neanche lo SPID che me lo devo fare, perché c'avevo l'appuntamento alle poste e poi non ci sono andato, che ho avuto da fare, capito? È un macello. Ma adesso credo che gli appuntamenti non ci siano più, per andare direttamente, anche perché siamo zona bianca, quindi credo che lo puoi fare direttamente. No, ci vuole l'appuntamento sempre, alle poste devi pigliare l'appuntamento perché ti devono identificare. Vabbè, se ti trovano in faccia non ti identificano, il documento, quella lì è l'identificazione. Lo so. Il segreto è andare presto e soprattutto quando non ci sono pensioni in giro. E infatti lascio passare questa storia dei pagamenti, poi vedrò di prendere l'appuntamento e via. Me la farò questo SPID, un divertimento di scatole, tanto serve per tante altre cose. Beh sì, puoi entrare nel fascicolo sanitario anche, insomma serve per moltissime cose, oramai è tutto, come si dice, tutto unificato, capito? Lo SPID, puoi entrare all'ACI, puoi pagarti il bollo, puoi fare quello o l'altro. Ah Gianfra, ho fatto una pennina autoinstallante del sistema operativo Windows 10, no? L'ho data a un amico che lo stava installando, dopo un po' l'ha fatto tornare indietro, boh, cosa può essere? Il computer difettoso, perché a me me l'ha installato, il mio l'ho installato dalla pennina. Ah, tu ti riferisci alla pennina, diciamo che fai tramite quell'applicazione di Windows, adesso mi viene il nome. Installare te lo dovrei far installare, se non te lo installa vuol dire che lui sta sbagliando qualcosa magari. Anche perché non è che ci sia tanto da fare, fa tutto il programma, a meno che non ci abbia qualche USB difettosa, la stiamo mettendo lì. Sto pensando anch'io una cosa del genere, perché cosa devi fare? Devi formattarlo quando sei dentro il programma, fargli la partizione nuova e installarlo, boh. Io così ho fatto e me l'ha installato, ce l'ho da tantissimo tempo questo Windows 10 e non mi ha dato mai problemi. No, per quello problemi non è da, l'unica rottura di scatole che c'ha degli aggiornamenti che sono lunghi nel mese di maggio, perché sono molto grossi, perché adesso a posto di cambiarti solo qualche cosa di parziale, cambiano a volte l'intero sistema operativo. Guarda che lì si può bloccare anche nel caso stia facendo una reinstallazione e quindi il disco è pieno, ecco, può avere un disco piccolino, perché c'è sempre, quando fai questi lavori rimane una directory che si chiama Windows Old, Windows vecchio, che bisogna eliminare se non ti serve, perché a volte quando fai una reinstallazione ti rimane quello vecchio e quindi occupa spazio, è come averne due praticamente. Sì, ho capito. Windows Old, stai dicendo tu, ma devi entrare sempre prima nel programma di installazione e la vedi lì questa Windows Old. Io adesso non me la ricordo, già è un anno che l'ho installata questa cosa. No, vai in ricerca file, la cartellina, no, che dovresti avere nel menu, come si chiama, cartella eccetera, vai nella radice e vedi lì che c'è Windows normale e poi una cartella con scritto Windows Old. Per disinstallarla con la cartella lì devi fare una piccola procedura in modo che la puoi eliminare, perché sennò non te la fa eliminare, capito? Capito. Stiamo parlando anche di 20-30 giga. Lo so, è quello. Magari io ce l'ho qua, questo Windows Old, dopo lo guardo a vedere se c'è. Sì, per sapere com'è dalla disinstallazione, che non me la ricordo, perché l'ho fatta un po' di tempo fa. Devi andare su Google, digitare eliminazione Windows Old, devi andare su impostazioni, poi pulizia disco se non ricordo male, e spuntare lì dove c'è il file, la cartella Windows Old, e te l'elimina, allora te la fa eliminare. Adesso cosa devo, io dovrò fare una cosa, non me lo ricordo, non me lo ricordo, quindi quello l'ho fatto. C'è tanta di quella roba da fare che non anticipi mai. Ieri ho collegato questo tedesco con 4-5 watt, solo che è troppo vicino in 20, credo che fosse, insomma, non lo ricordo bene, 20 metri. Anche la moglie è radiomatrice, sono tutti radiomatori. E questo qua c'è una stazione nell'Alta Baviera, piccolina, anche lui QRP, proprio c'è un apparecchio vecchio che neanche me lo ricordo, proprio tutta roba un po' datata. Ecco. Avanti, buonasera, ciao Franco in compagnia di Natalinus. Ciao Franco, ciao Natalino, un rapporto di segnale a radio, me lo date per cortesia, grazie. Sì, la radio per me va bene, il segnale non l'ho visto perché c'ho quello a LED, dovresti essere a 8, un 8, 8, 9, perché non sono molto precisi, no, già lo sai, sono tutti messi male. Avanti Natalino. La radio è forte, pure satura, un po' satura qua, e si fondo scala tra. E ok, dai, sto chiudendo questa radio, dai, al limite rientro dopo, ok, grazie. Ciao. Capitato, è sempre un macello, e niente. Oggi è una bella giornata, è tutto sommato. Se ne immagini che adesso non è le 5.35 tra poco. Che paranoia, ragazzi. Questi dei figli temporanei sono. Gianfra, che lo stavo guardando. No, ho capito Natale, ha detto questi. File temporanei. No, i file temporanei sono un'altra cosa. Sono quei file che anche quelli si potrebbero cancellare. Ma sei andato su impostazioni, quelle cose lì? Sì, impostazioni sono andato. Adesso vediamo un po' la situazione qua. Dove devo andare dopo impostazioni che non me lo ricordo? Aspetta un attimino, là, che ci vado anch'io. l'accende, sì. L'accende. E così ti guido. Che rumore che c'è su questo canale. Natali, spostati su. Ah, andiamo sul canale sotto, che mi sembrano più silenziosi. Sempre qua, solo il coso sposto. Come canale? Proviamo ad andare sul 2, dai, sul canale 2. Natali, dove sei finito? Gianfranco, ci sei? Sì, Natali. Sì, ma dove eri finito? Sto chiamando. Ma sono andato sul 2 e non c'eri. Deve essere non corrispondono i canali. Sul 2, il canale 2 è il canale 2, prima del 2 c'è l'1, che è 26, cos'era, 965, quindi credo, no? Il mio corrisponde. No, non corrispondono i canali, tra il mio e il tuo. Se andiamo a frequenza corrispondono, ma i canali vuol dire non corrispondono. È già successo. 975 è la frequenza del 2. Io andiamo. Ora c'è qualcuno? Ora? Ora c'è qualcuno su 10? C'è avanti. Ciao Claudio, e beh, tutto bene? Sì, su QSL, buonasera. Sì, tutto a posto, non c'è male. Passando un po' di ora, sono fischiato su 10, mi hai risposto qui, su un'altra frequenza, faccio un ascolto e sono passato qui adesso, riprendi. Ci sono gli americani, stanno arrivando oltre 9 qua, ho provato a chiamare, ma ovviamente o hanno potenze esorbitanti loro, ma sono uno sopra l'altro, non mi hanno risposto. Sì, qua sono, io sono in Cattolina FM, sì, vicino al 10, mi sa sul 11 credo, capito, perché sto usando il 75, quello che avevo con la portata dell'altro giorno, e sì, ho sentito pure io, e qui ovviamente sull'altra frequenza, perché c'era gente, io ero su quella frequenza lì, nella quarta metri, e domani se riesco a liberarmi scendo giù da te per prendere quella roba là e vediamo un pochettino, eh? Sì, può essere, ma è così facciamo quell'altra cosa, capito? Perché è pochino quello che mi ha portato, però sai così, sono molto delicati e non ha la stessa ricezione, le stesse funzioni che c'ha quello che si accollega al computer, capito? Per quello che è un'altra cosa, te l'ho spiegato, perché anche la ricezione cambia e questo è comodo perché è molto tascabile, è un formato molto tascabile, c'è tutto quello della tasca, gli attacchi l'antennino e però c'ha quella roba del touchscreen e un casino, cioè, capito? Ho provato in mille maniere a collegarlo, me lo legge però non me lo fa pilotare perché il modello questo è il più economico proprio che hanno fatto e invece quell'altro che ha le manopoline che ti ho spiegato, quello si può collegare, quello fa tutto, lo puoi usare sia da computer, con il manovrare sul computer, da lontano in pratica, insomma, come si dice, puoi fare tante cose con quella roba lì perché è una figata, però l'altro modello che ti sto dicendo, quello è tutta un'altra cosa per vedere, capisco di più. Vabbè, questo lo sai cosa c'è di bello, bello diciamo, relativamente bello perché è scomodissimo, perché è tascabile, è quanto un pacchetto di sigarette, e poi se tu vuoi vedere, per dire, vuoi vedere lo spettro e il coso quando sei in giro, io lo utilizzavo quando andavo per dire col camper in qualche giro, cose così, dico la sera dopo pranzo, accendevo, mi guardavo qualche segnalino, qualche stazione per vedere com'era il segnale, perché te lo dà anche in decibel oltre che in coso il segnale, l'intensità. Sì, l'ho provato. C'erano dei fogli di 40 che stavano parlando 80 metri e sì, fa delle belle cose, fa l'ho provato, è molto bello però non ha niente a che vedere con quell'altro che ti ho spiegato perché sai cosa, quello è tutta un'altra cosa, perché puoi fare un sacco di cose, perché ci puoi installare anche dei programmi sul software per fare delle verifiche, puoi fare più cose con quello, capito? Te l'ho consigliato di prenderlo per quel motivo, capito? abbiamo sul coso, ho messo lì che lo sto usando, perché io sto col pennino, l'altro, però non è anche quello che tu hai, non serve a niente, mi ho spiegato così, lì col pennino, perché quell'altro che ti ha fatto vedere il migliore, il massimo, perché sul mercato è quello, e infatti nulla anche io ci farò un pensierino, perché ho visto che è tanta roba quello di prima. Sì, è bello perché c'hai due indirizzi, per le HF e per le U, per cui c'avrà sicuramente un filtro per eliminare le broadcasting 8808, perché il problema di queste chiavette, se tu non metti un filtro 8808, è una gagliarda, cioè, e ti attenua tutte le HF. Sì, c'è anche una modifica per farla 030, ho provato a fargliela, ma l'ho rovinata, infatti me ne sono comprato una. Buonasera anche a Claudio. Ero con Natalino su due, poi ci siamo spostati qua. Quindi c'è anche Natalino? Sì, ma è impegnato, sta parlando in verticale. C'è Claudio, ti rilancio, ben sentito comunque Gianfranco, poi dopo ti chiedo un'informazione tecnica. Ti rilancio Claudio per i saluti avanti, Claudio per Gianfranco. Sì, ciao Gianfranco, buonasera, ben sentito, Santiago, Radio 5, Silvia Muro, sì, mi fa piacere a te, buonasera Gianfranco. Sì, ciao Claudio, sono ascoltato, io sono da due parti, come senti sotto, sono di là e di qua, e di su dei di giù. Allora Roberto, tutto bene? Sì, sto organizzando per questo sistema digitale, questa mappa, vabbè, tramite Claudio prenderò questa, non dico chiavette, dai, l'evoluzione delle chiavette, quelle che c'ha due indirizzi, uno per le HF e un altro per le U, quelle scatolette tipo pacchetto di sigarette, che tanto non costano neanche molto. Quello che ti volevo chiedere, per fare quelle operazioni così, lo teniamo anche, conferma anche a Claudio che lui le usa spesso, è necessario un computer veloce o basta qualunque computer per interfacciarle, per fare quelle operazioni che dobbiamo fare, Gianfranco? Ma dipende dai gusti, se è veloce è sempre meglio, ovviamente, ma se poi il convento passa quello che passa, l'importante è almeno che ci abbiamo Windows 10, ecco. Cioè è indispensabile che ci sia Windows 10, che ci sia una RAM diciamo importante o basta una RAM piccola? No, non sto dicendo che è necessario Windows 10, ma se teniamo presente che fra poco anche il Windows 10 sarà sostituito dall'11, è meglio avere l'ultimo, no? Quindi un attimino che ci denti, che ogni tanto mi scappa il collegamento. Quindi è sempre meglio avere una cosa moderna che una cosa vecchia, ecco. Sì, adesso facciamo riprendere a Claudio. Tu Claudio, cosa c'hai per le operazioni che te ne occupi tu? Sì, PSL. Allora, concordo con quello che stava dicendo Gianfranco, poco fa, sì, è sempre meglio usare un computer velocino, non molto veloce, ma però velocino, perché le possibilità di su Windows XP o quei sistemi vecchi e che sono ormai obsoleti, ti fai grazie, perché alcune, come si chiama, che si installano sul software, cioè alcune, come si dice, alcune applicazioni, che si mettono sul software, come quelle dei codici interdigitali, delle rotoline, non potrebbero funzionarti, perché ormai i programmi sono tutti sistemi ma quello che io voglio dire, non è necessario un computer super veloce per utilizzare questi sistemi qua. E lì, se c'ho un computer, perché io non voglio investire per uno di questi unità esterne, non lo voglio spendere di soldi, voglio darmi un budget di 100 euro, non di più, perché non mi interessa. E quando sono mi compro un computer serio o un portatile, e per il momento utilizzo quelli che ho io in casa. E non voglio investire per un divertimento, diciamo, radiofonico. Perché cosa dici tu, Gianfra? Nel senso, una volta che tu c'hai un computer, anche se c'è poca RAM e un processore che non è di ultimissima generazione, e c'è per dire, c'è stato Windows 10, dovresti funzionare comunque. Per fare le cose semplici sì, se fai le cose che richiedono un pochettino più di performance da parte del processore e anche di RAM, allora il discorso cambia. Comunque provvisoriamente puoi usare quello che ti pare. Poi ti ho detto, per l'interfaccia, se la radio non è del 1930 non ci sono problemi, ecco, capito? Qualunque cosa ci metti, almeno ricezione di sicuro va. No, ma quello che voglio capire io, hai necessità di avere un processore veloce, super veloce, o basta per farlo funzionare anche un semplice computer, anche per dire 6-7 anni fa? Guarda, puoi usare anche un computer datato a questo punto, l'importante è che non sia un cartuccio, che faccia almeno, che avvia almeno il sistema operativo, guarda, che si regga in piedi, in poche parole. Poi di risorse, ripeto, per cose semplici, elementari, basta. È quello che volevo dire, siccome non devo fare grafica, non devo fare video, montaggi video, cose del genere, è soltanto da interfacciarlo alla radio e mettere un monitor per farmi vedere quelle cose che abbiamo parlato ieri, oppure queste famose chiavette o cose del genere per vedere anche lo spettro, eccetera, eccetera, quello che stavamo vedendo con Claudio quando è avanti ieri, mi sembrava, sì, il sabato mi sembra che le abbiamo viste. Non è necessario avere un processore di questi 8 al core, 12 giga di RAM, eccetera, eccetera. No, io ho quello, ho 8 giga di RAM, è un computer serio, però è perché con uno solo faccio tante cose, quindi senza avere 10 cose, ognuna che fa una cosa sola, il computer può fare praticamente di tutto, basta che sia configurato bene. Ehi, vai Claudio, tu. Dalla scena perlomeno informatica, anche perché non ci sono aggiornamenti comunque. Sì, no, naturalmente, però quello che voglio dire, io il computer ce l'ho, ne ho più di uno, come detto, ripeto, non sono nuovissimi, però funzionano bene, non posso dire niente, però non ne voglio di portatile, perché non voglio lo schermo in mezzo ai piedi, siccome ho dei ripiani dove c'ho la stazione, mi ho preso una tastierina piccolina dai cinesi e mi voglio mettere un'unità esterna sotto che non mi dà fastidio, coi cavi che non si vedono e lavorare da lì. E basta quindi avere un computer che ti permetta di utilizzare Windows 10, così confermi Gianfranco. Si aspetta che mi sta rispondendo uno. Che esasperazione, ma quando mai? Vabbè. Sì, però l'importante secondo me è iniziare a capire come funziona il tutto. Poi se ti accorgi che è sufficiente, insomma i rimedi già ci sono, ecco. L'importante è iniziare a installare i programmi, a vedere come funziona il tutto, perché sennò puoi avere anche il computer più potente del mondo, ma se poi non prendi pratica con i programmi è un cavolo tutt'uno, capito? Sì, confermo. Poi ieri, anche avanti ieri, Claudio, io le ho portato su una di, non so se le conosci, quelle che sono tipo un pacchetto di sigarette che hanno un esatto rispetto, sono tipo delle chiavette evolute, dai, che hanno un display touch screen comodissimo da usare, quelle Malachit o Malachite come si pronunciano, non lo so. E quel modello che c'ho io, lui non è riuscito a farlo interfacciare col computer. E cosa bisogna fare eventualmente, Gianfranco, interrogativo, per farlo funzionare? Perché c'è un altro modello con delle manopole fatte in un modo diverso dal mio che lo interfacci, quello mio non è riuscito a farlo partire, cioè ti appare la pagina però non riesce a farlo muovere, diciamo, manualmente dal computer. Si può fare qualcosa? Scusami Robert, per un attimo non ho capito, perché sono inseguito da un francese, se puoi ripetere, perché adesso abbasso anche perché mi ha un po', non sto più diventando stereo, sto diventando mono, quindi se mi ripeti l'interrogativo. Allora, se prego, mi scuso con Claudio, un attimino Claudio per il monopolio. Allora, io ho acquistato tempo fa una di quelle scatoline tipo, fai conto, un pacchetto di sigarette, non so se l'hai mai vista, Malachite o Malachite o come si pronuncia, non lo so, e hanno la possibilità di ricevere i segnali sino a, mi sembra, 200 MHz, da 15 a 200 MHz, diciamo, le frequenze non ci interessa, c'è un piccolo display touch screen dove tu puoi impostare diversi parametri, eccetera, eccetera, è un po' scomodo da usare. Questo c'ha l'uscita USB che teoricamente si può interfacciare col computer, esistono dei programmi per farlo funzionare, vedere tutto quello che c'hai tu sul monitor di un computer. Un altro di questi, su internet ci sono, su YouTube l'ho provato, il modello forse successivo al mio, ci sono i programmi e lo fanno andare tranquillamente. L'ho portato a Claudio con quello SDR Sharp, però non è riuscito a farlo camminare, nel senso appare la pagina però non riesce a intervenire. Hai qualche idea di come si può fare? Sì, andate di fronte, se c'è ancora qualche cassonetto, e buttarlo via, perché per fare queste cose in realtà occorre molto di meno. Guarda, te l'ho detto, se proprio voi fate una piccola interfaccia che per trasmettere, perlomeno con una determinata lunghezza di banda, che è più sufficiente per tutta la KF, ti occorre, guarda, per fare la separazione, uno di quei banali trasformatorini di radio, di quelle radio AM che usavano una volta, quelli che fossero russi o cos'erano, giusto per fare la separazione tra la parte trasmittente e il computer. Poi non ti serve altro, per ricevere invece subito, poi metterci uno spinotto lì, soprattutto su quell'apparecchio che c'hai, ci metti lo spinotto e sta già andando, tu figurati, per ascoltare le broadcasting è sufficiente un filo nella, ovviamente interposto con un ceramico per avere una separazione, direttamente alla radio, e vedi che spettacolo che è, senza interfacce, giocattoli, click e track, e poi magari a seconda della lunghezza dei fili ti creano anche dei problemi di interferenza, capito? Quindi sono cose molto semplici per iniziare, e tanto oramai in tutti gli apparati moderni eccetera chi lavora il computer non è più un'interfaccina, il giocattolino, il click e track, capito Roberto? Ehi, ok, vai Claudio, a te. Perché c'hanno anche Io stavo guardando questo, che tra l'altro deve essere un collega di Roberto, perché vedo che c'è una tocca a rombo di camper che ho collegato adesso. E quello che mi sono autocostruito io praticamente, avevo una vecchia interfaccia di quelle telefoniche e dentro c'aveva due bei trasformatorini. L'ho preso, l'ho collegato e ricifra tutto praticamente, ma giusto per separare.